50 anni, che per chi ne ha più di 50 è un bel complimento, chi ne ha di meno, insomma, un po' meno, però come Chiesa abbiamo 50 anni. Io voglio ricordarci che la Chiesa non è un edificio, non sono dei programmi, non sono delle attività. Vi ricordate cosa dice la Bibbia della Chiesa? La Chiesa è la famiglia di Dio, è la comunità dei credenti, è il popolo di Dio che ha ottenuto la salvezza per grazia in Cristo Gesù, e in virtù di quella promessa, di quel beneficio ottenuto, di quella grazia ottenuto, ora vive insieme in unità portando avanti la missione di Cristo. Questa è la Chiesa e noi siamo privilegiati di esserne parte e grati. Quanto è bella la gratitudine, ragazzi, quanto è importante la gratitudine. La gratitudine è come uno sgrassatore che scioglie i pensieri negativi. La gratitudine è come uno sgrassatore che scioglie quelle incrostazioni, quelle macchie di emozioni e stati d'animo negativi. E quanto siamo soggetti a tutto questo in questo tempo. Sii grato a Dio. Sii grato a Dio per le cose che Lui ti ha dato, sii grato a Dio per ogni dono buono che Lui ha dato nella tua vita, perché questo darà riequilibrio alla tua vita. Siamo soggetti a tante di quelle informazioni, bombardamenti di emozioni che ci destabilizzano, e noi dobbiamo riconquistare quel giusto ordine delle cose. Sapete dove lo troviamo? Nella gratitudine. Quando esprimiamo gratitudine ritroviamo noi stessi in Cristo, ritroviamo i nostri valori, le nostre benedizioni, ritroviamo le promesse di Dio per noi, e quindi noi siamo grati, tra le altre cose, per la nostra Chiesa. Amen. Sei grato della Chiesa? 50 anni che esistiamo, e perché lo celebriamo? Perché è una forma di gratitudine. Il Signore ci invita ad essere grati dei Suoi doni. Questo è un motivo di gratitudine. Quello che viviamo dopo 50 anni è motivo di gratitudine. Amen. Io voglio invitarvi a seguire questo video che abbiamo realizzato anche per questa domenica, ed è un video dove alcuni membri della squadra pastorale esprimono gratitudine, ma anche aspettativa e il valore che vedono nella Chiesa. Quindi ascoltiamolo e vediamolo insieme. Sono grata alla Chiesa perché la Chiesa per me è famiglia. Io ho lasciato la mia famiglia e la mia Chiesa ormai 18 anni fa. Quando sono arrivata qui la Chiesa mi ha accolto. È stata per me la mamma che mi ha insegnato a cucinare, le zie che hanno accolto e tenuto i miei figli, la sorella che mi ha abbracciato e ascoltato. Quindi sono molto grata alla Chiesa che ha fatto famiglia per me. Noi siamo grati a Dio per i volontari, perché sono il pilastro secondo noi della Chiesa. Noi amiamo i volontari e siamo grati per il sacrificio, la costanza, sì, l'impegno, la dedizione, l'amore che mettono ogni domenica, ma anche durante la settimana, in ogni servizio, in ogni area della Chiesa. Sono grata a Dio della Chiesa in generale, la Chiesa e la sua funzione. Nello specifico per il nostro contesto amo la familiarità, quel senso di appartenenza, però anche mi piace molto la generosità divina che ognuno ha preso per sé, che non è solo quella economica, ma anche il dare amore, il prendere il peso l'uno degli altri. Ero poco più un bambino di 2 anni quando con la mia famiglia entravamo per quella piccola porta in via Santa Lucia, e il resto è storia, è la storia della mia vita. Grazie Chiesa per avermi sostenuto, incoraggiato, grazie per aver creduto in me, grazie per le tante memorie indelebili di grande valore che hai creato nella mia mente e nel mio cuore. Un altro aspetto per cui amiamo la nostra Chiesa è che è una Chiesa che accoglie e abbraccia. E chiunque, qualsiasi sia il suo percorso di vita, viene accolto, viene amato, viene abbracciato per incontrare Gesù. Certamente quello che ci entusiasma di più sono le vite salvate. Vedere che il Signore regala la vita eterna domenica dopo domenica è qualcosa che mette in noi entusiasmo. Quello che proprio mi rende molto gioiosa e mi riempie di entusiasmo è dare del mio per far sì che operai possano raggiungere nazioni dove Gesù non è conosciuto. Se penso che prendono posizione, cambiano il proprio stile di vita, grazie anche a quel minimo di impegno che io posso dare, e che quindi portano quella salvezza oltreoceano, quindi vedere proprio guru induisti che accettano Gesù o leader musulmani che accettano Gesù, questo non solo mi fa correre, ma proprio mi fa saltare. Quello che mi entusiasma della Chiesa è la sua capacità soprannaturale di restare giovane. Attraversa i decenni, passa sopra le mode e risulta essere sempre viva, proiettata verso il futuro con un presente che già di per sé è glorioso. Sono convinto, siamo convinti, che in questa nuova stagione che si apre Dio voglia portare la nostra Chiesa a raggiungere posti dove non siamo ancora arrivati e quindi avere un'influenza magari negli ambienti di lavoro, avere un'influenza nella società, avere un'influenza nel tessuto sociale della nostra città, della nostra regione. Io sono convinto che Dio ci sta portando a conquistare territori che forse non abbiamo del tutto ancora conquistato in questi 50 anni. Dio sta guidando in questa nuova stagione, credo, nella direzione di incoraggiarci alla connessione. Infatti quest'estate io e Gianluca abbiamo ricevuto queste due parole dal Signore, connettere e ascolto. E abbiamo preso del tempo per fare proprio questo. Io credo che come Chiesa abbiamo una nuova fase davanti a noi, dove il Signore vuole che come corpo noi alziamo l'asticella. O se lo posso mettere con un'altra metafora, è allargare le nostre fondamenta in Lui e su di Lui. E come ci chiama ad allargare queste fondamenta? Secondo me attraverso, come Carli diceva, il vincolo dell'amore, il sforzarci a conservare l'unità, a vedere l'altro più di noi stessi. Credo che sia una stagione davvero molto particolare e di grandi cambiamenti, anche a livello sociale. Credo fermamente che Dio ci voglia proprio riportare all'essenziale, rimettendo, rinnovando in noi proprio quello spirito pionieristico, evangelistico. Sono certo che Dio ci stia guidando alla meta verso la quale ci ha condotti in tutti questi anni. Una Chiesa fatta di adoratori, con il cuore di servi, l'identità di figli di Dio appassionati per la causa del Regno. Bello, io voglio ringraziare coloro che hanno contribuito con le loro parole a darci qualcosa oggi, e a tutto questo voglio aggiungere qualcosa di importante. Come Chiesa noi non solo amiamo la parola di Dio, ma noi dipendiamo dalla parola di Dio. Noi vediamo nelle scritture la nostra guida, la nostra bussola. Noi vogliamo fare quello che le scritture dicono, perché non crediamo che le scritture contengano in qualche sua loro parte la parola di Dio. Noi crediamo che tutte le scritture sono parola di Dio. E quindi un modo per celebrare la parola di Dio dopo 50 anni che viene predicata da questo pulpito è leggerla, meditarla. E quello che faremo oggi è meditare questo verso, Romani 12, versetto 1, che dice: «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente». Corpi in sacrificio vivente. Ripetetelo con me: corpi in sacrificio vivente. Un po' più convinti? Corpi in sacrificio vivente. Santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Nelle scorse domeniche abbiamo citato, nominato degli uomini, delle donne. Papà ha fatto la scorsa domenica un excursus della storia decennio per decennio della nostra Chiesa, e quello che mi è piaciuto in questo excursus è che quello che ha fatto Gesù, no, mio padre, ho un'alta stima per papà, ma non è Gesù, papà, è proprio farci comprendere che la Chiesa è il risultato dell'azione di persone. È il risultato di sacrifici, è il risultato di uomini, di donne che hanno messo a servizio di Dio la loro vita. È per questo che ho citato questo verso. E sapete, questo verso ha un certo peso, Perché per chi conosce la lettera ai Romani, questo verso sancisce quello che è un passaggio, definisce un, è un verso di passaggio che porta il lettore da quello che sono gli 11 capitoli di Romani, 11 capitoli di teologia, 11 capitoli dove l'Apostolo Paolo parla del peccato, parla del piano di salvezza di Dio, parla della redenzione, parla della giustificazione, parla della santificazione, della glorificazione, parla di concetti elevati, di teologia, ci fa comprendere qual è il senso e il valore del sacrificio di Cristo, ci fa comprendere quali sono le promesse che si sono adempiute in Cristo Gesù attraverso il suo sacrificio per noi. Pensate che la lettera ai Romani cita per ben 57 diverse volte versi del Vecchio Testamento. Se tu vuoi comprendere l'intera scrittura, Romani è quasi un sunto, un riassunto per comprendere tutto il Vecchio Testamento, il Nuovo Patto, quello che Gesù ha fatto e la Chiesa. E poi giunge al 12° capitolo e nella mente dell'Apostolo Paolo c'è un obiettivo specifico: presentare alla Chiesa a Roma lo stile di vita del cristiano, del credente. E per collegare questo passaggio dalla teologia, da tutto quello che ho detto, a questo stile di vita del cristiano, dice: vi esorto, dunque, in vista di tutto quello che ho detto, no? Perché ho detto tutto questo? Alla luce di quello che ho detto, vi esorto dunque, fratelli, e poi va avanti dicendo, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. E poi va avanti con un elenco di indicazioni, va avanti con una descrizione dello stile di vita cristiano. E per farvelo comprendere vorrei fare qualcosa con voi, quello che siamo soliti fare a casa, cioè aprire la nostra Bibbia, spero ogni giorno, e leggere la parola. E quello che vorrei che noi facessimo oggi è farlo insieme. Leggeremo insieme questi due capitoli, Romani 12 e Romani 13, per assaporare che cosa l'Apostolo Paolo va ad insegnare in questi due capitoli e poi fino alla fine della lettera, nei capitoli 14, 15 e 16. Quindi siete pronti a questa lettura con me? La potete seguire sullo schermo e io mi metto di lato. E la mia preghiera è che lo Spirito Santo possa parlare a noi attraverso la sua parola. Io sono convinto che lo Spirito Santo parla e forse ti dirà delle cose che non hanno niente a che fare con il messaggio di oggi, ma che troverai in questi versi. Ma vogliamo pregare insieme. Padre, noi ti preghiamo che mentre leggiamo tu possa parlare alle nostre vite, ai nostri cuori. Noi crediamo che quella che sto sfogliando adesso e sto aprendo è la tua parola, ed è viva ed efficace ed è capace di cambiare cuori, circostanze, stili di vita, ed è proprio quello che noi vogliamo oggi, crescere in te, quindi parlaci. Amen. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Avendo pertanto carismi differenti, secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo carisma di profezia, profetizziamo conformemente alla fede, se di ministero, attendiamo al ministero, se di insegnamento, all'insegnare, se di esortazione, all'esortare, chi dà, dia con semplicità, Chi presiede lo faccia con diligenza, chi fa opere di misericordia le faccia con gioia. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri. Siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono, abbiate tra di voi un medesimo sentimento, non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi, non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio. Poiché sta scritto, a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Poiché così facendo, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori. Perché non vi è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu non vuoi temere l'autorità? Fai il bene e avrai la sua approvazione. Perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene, ma se fai il male temi, perché egli non porta la spada in vano, infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. Perciò è necessario stare sottomessi, non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. E anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi, che sono costantemente dediti a questa funzione, sono ministri di Dio. Rendete a ciascuno quello che gli è dovuto, l'imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo, l'amore quindi è l'adempimento della legge e questo dobbiamo fare consci del momento cruciale. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Che bella lettura, vero? E la narrazione e le istruzioni e le indicazioni vanno avanti per i prossimi capitoli. L'Apostolo Paolo non fa altro che continuare a definire questo stile di vita straordinario. Straordinario perché è proprio fuori dall'ordinario. Straordinario perché non ha niente a che fare con quello che siamo abituati a vedere. Infatti nel capitolo che abbiamo letto c'è scritto proprio: non conformatevi a questo mondo, perché questo stile di vita non è conforme allo stile di vita che c'è nel mondo, che c'è attorno a noi. È uno stile di vita che i cui valori, le cui priorità, i cui modi di fare sono sottosopra, sono ribaltati rispetto anche a quella che è la nostra inclinazione naturale. Nessuno di noi, per inclinazione naturale, si comporterebbe mai seguendo tutte queste istruzioni. Questo stile di vita straordinario, questo stile di vita soprannaturale, questo stile di vita così elevato, così diverso, è uno stile di vita che molto probabilmente non ci è stato inculcato quando eravamo piccoli. Non siamo cresciuti e non siamo stati educati probabilmente a questo stile di vita. Questo stile di vita non ha a che fare con la cultura italiana e il modo di comportarsi degli italiani, e a dirla tutta non ha a che fare con nessuna cultura di questa terra e non ha a che fare con nessun modo di fare di nessuna nazione, perché proprio unico è il modo di vivere di Cristo Gesù e del suo popolo e del suo regno. Ed è uno stile di vita sottosopra. Upside down. Facciamo risvegliamo un po' la memoria di chi ha fatto parte degli upside down. Noi abbiamo dato questo nome al gruppo dei giovani perché, ispirati da questo verso che troviamo nella maglietta, quanti hanno indossato questa maglietta nella loro storia? E dice: quelli che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti anche qua. E fa riferimento ai discepoli che giungono a Tessalonica, e questa è stata la reazione dei cittadini di quel posto: quelli che mettono sotto sopra il mondo, quelli che mettono sotto sopra il mondo. E quindi noi abbiamo chiamato il gruppo dei giovani Upside Down, così anche i giovani che attualmente ne fanno parte hanno memoria di questo. Noi siamo tutti i credenti, sono degli Upside Down, tutti i credenti vivono in una maniera rivoluzionaria. E la nostra rivoluzione nell'indossare quella maglietta era scendere nelle piazze, dare volantini come questi, che eravamo convinti che potessero ispirare tante persone, che fossero belli e attraenti e che avessero l'efficacia di portare qualcuno alla conversione. Un trattato e un manuale di istruzioni che il più delle volte ritrovavamo nelle stesse piazze a terra. Abbiamo sbagliato? Per niente. Perché essere dei rivoluzionari significa credere che Gesù si vuole servire delle nostre vite per cambiare la vita di altri, che Dio ci ha appartati quale popolo suo per annunciare l'Evangelo attraverso ogni mezzo, ogni locandina possibile, ogni recita, ogni attività creativa, ogni appuntamento, ogni connessione, ogni caffè, ogni cena. Gesù si vuole servire di noi per portare salvezza ad altri, e questo è rivoluzionario. Quando tu scegli di vivere questa vita sei un rivoluzionario, e sarebbe bello che in ogni luogo dove noi andiamo la reazione delle persone possa essere: questo è uno che mette sotto sopra il mondo, come fu detto per i discepoli a Tessalonica. Ma sapete, essere rivoluzionari non significa solo essere dei pionieri, piantare nuove chiese, evangelizzare, scendere in piazza, andare in luoghi ostili per annunciare l'Evangelo. Essere dei rivoluzionari è anche assorbire completamente lo stile di vita del cristiano che ci viene presentato in questi versi. Anzi, a volte è più rivoluzionario e difficile essere disposto ad amare il nostro nemico e a dargli da mangiare che non scendere in piazza e offrire un volantino a qualcuno. A volte è più difficile creare unità dove ci sono contese all'interno di una chiesa ed essere promotore dell'amore che Gesù ha insegnato, che porge l'altra guancia, che non sospetta il male, che non si fa prendere dal proprio orgoglio, che non fare un'opera pionieristica all'altra estremità della terra. Non scredito né l'una né l'altra cosa, sono le due cose che vanno di pari passo. Mi seguite? Sono entrambe fondamentali per essere quel rivoluzionario che Dio ci chiama ad essere. Però oggi ci vogliamo concentrare proprio sul testo che abbiamo vissuto, perché l'Apostolo Paolo, alla luce degli 11 capitoli di narrazione, di salvezza, di grazia ottenuta, di redenzione, di giustificazione, poi va avanti dicendo: non scendete in piazza, non stravolgete il mondo con l'annuncio dell'Evangelo, non prendete delle trombe per raccontare a tutti quello che Dio vi ha detto, vi ha fatto, no. Chiaramente lo intende anche questo, vuole che facciamo questo, ma è particolare, è rivoluzionario e anche un po' strano che l'Apostolo Paolo dice: pagate le tasse. Comportatevi in modo onesto. Non vi ubriacate, non vivete immoralità, non vivete fornicazione, sesso al di fuori del matrimonio. Non conformatevi a questo mondo. Ospitate, benedite, mai, mai maledire. Non ricambiate al male avuto altro male. E a volte far suonare le trombe, annunciare l'Evangelo è molto, molto facile rispetto a perdonare quel vicino di casa che ci tiene svegli la notte per il disturbo che ci porta, perché stranamente decide di camminare con i tacchi alle 3 di notte. Eppure la vita del credente è fatta di istruzioni molto pratiche. Ed è per questo che l'Apostolo Paolo dice: presentate i vostri corpi. Non solo il vostro cuore, non è solo una questione di cuore, non è solo una questione di mente, non è solo una questione di inclinazione della nostra adorazione a Dio con i canti, non è solo un culto che viene prestato perché facciamo delle cose alla ricerca della presenza dello Spirito Santo. No, dice: presentate i vostri corpi, le vostre mani, i vostri piedi, le vostre bocche, quello che dite. I vostri soldi, come gestite i vostri soldi? Le vostre orecchie, le vostre membra. Gesù e l'Apostolo Paolo ci invitano a sacrificare la nostra azione quotidiana affinché la nostra azione quotidiana presenti quello stile di vita rivoluzionario che parla di Lui. Perché se hai ottenuto la salvezza in Cristo Gesù, lo si può dire non perché sei bravo a predicare, ad annunciare ad altri cosa devi fare, ma lo dimostri e lo manifesti perché ti arrendi, muori a te stesso, diventi un sacrificio vivente, ovvero un morto che cammina. Che cos'è un sacrificio? È qualcosa che muore. Però l'Apostolo Paolo dice: sacrificio vivente, non dovete ammazzarvi letteralmente, ma dovete morire a voi stessi, alla vostra carne, alla vostra inclinazione, al modo di fare della società che vi circonda, al modo che vi è stato inculcato da quando eravate piccoli, da tutto ciò che fa, che è logico, che è razionale per voi, ma che è fuori da quello che è il canone, lo stile di vita che invece Gesù insegna nel Sermone sul Monte. Culto spirituale. Questo è il vostro culto spirituale. Il culto che cos'è? Il culto è il servizio sacro. Il culto è la manifestazione di adorazione e devozione a Dio. E uno quando pensa al culto, al servizio sacro, all'adorazione a Dio, non pensa affatto a essere sottomessi al carabiniere e mettere la propria cintura e guidare nel limite di velocità. Eppure è così concreto che l'Apostolo Paolo va nella vita di ogni giorno. Dio ci invita a questa vita, Dio ci invita a sacrificare i nostri corpi, quale profumo soave per la sua gloria. Questo è il nostro culto spirituale, questo è quello che Lui ci invita a fare in ogni giorno, e ci vuole sacrificio, ci vuole il sacrificio è un prezzo. Presentate i vostri corpi come sacrificio vivente. Il sacrificio, chi è che è venuto qui perché voleva sentir parlare di sacrificio? Nessuno di noi voleva sentirsi parlare di sacrificio. Qualcuno mi sta guardando storto come a dire: ma io in questo tempo, nel pieno dell'epidemia, ho perso lavoro, mi trovo nella situazione che mi trovo e vado in chiesa per sentirmi parlare di sacrificati, sii un sacrificio vivente. Io vorrei un po' di incoraggiamento, un po' di consolazione. E questa è proprio l'esortazione, l'incoraggiamento che Dio vuole darti in questa stagione. L'Apostolo Paolo dice: vi esorto, vi incoraggio a sacrificarvi, a pagare un prezzo. Il sacrificio è qualcosa che ci porta alla rinuncia, a qualcosa che richiede sofferenza, a qualcosa che toglie, a qualcosa che non ci fa sentire comodi. Questo è il sacrificio. Ma il sacrificio è l'esortazione di Dio per noi, perché non c'è vita che abbia valore senza che essa sia caratterizzata dal sacrificio. La grandezza viene dal sacrificio. Una vita che ha gloria e che porta ripercussioni eterne, che ha un valore, che ha un significato, è una vita che è fatta di sacrifici. Non impaurirti davanti al termine sacrificio. Non rinunciare al sacrificio. Non rinunciare al privilegio di poterti sacrificare nella tua vita. Lottare, soffrire. E ci vuole sofferenza per essere generosi, ci vuole sofferenza per ospitare, ci vuole sofferenza per servire la Chiesa, ci vuole sofferenza se lo facciamo veramente col cuore, ci vuole sofferenza nel perdonare. È un sacrificio. Se non ti costa niente, se è facile per te perdonare, forse o non stai perdonando totalmente, o forse quel torto non è così grave come pensavi. Perché il perdono che costa e che è profumo soave è un perdono che è sacrificio. È un morire a se stessi. Questo onora Dio. E noi siamo qui perché vogliamo onorare Dio con le nostre vite. Noi vogliamo vivere il sacrificio e siamo tutti disposti a sacrificarci per ciò che amiamo. È vero. Che sacrifici siamo disposti a fare per qualcosa che vogliamo ottenere, per qualcosa a cui diamo valore? Ogni uomo su questa terra è disposto a sacrifici che arrivano fino anche a sacrificare proprio letteralmente la loro vita per delle cose che vogliono conquistare. E ciò per cui tu sei disposto a sacrificarti descrive la ragione per la quale tu vivi, definisce per cosa tu stai vivendo, cosa stai inseguendo nella tua vita. Se ti sacrifichi per la Chiesa, per i fratelli, per amare, per servire, per guidare quel gruppo familiare che non è facile, per accogliere, per fare turni su turni, per prodigarti nelle cose visibili, ma ancor di più le cose invisibili che nessuno vede. Questo dice tanto di te. Io voglio onorarti e celebrare oggi tutte quelle persone che permettono a noi oggi di essere Chiesa perché si stanno sacrificando. Se tu stai beneficiando di un servizio è perché qualcuno ha pagato un prezzo. E se un domani la nostra Chiesa andrà avanti di gloria in gloria, sarà nella misura del prezzo che saremo disposti a pagare. Ci vuole sacrificio per vivere questo stile di vita. Ci vuole sacrificio per avere pazienza nella tribolazione. Per questo è idoneo questo messaggio. Dici: ma nel mezzo dell'epidemia proprio questo messaggio dovevi scegliere per noi? Sì, perché abbiamo letto: siate pazienti, pazienti nelle tribolazioni. pazienti. Io vedo poca pazienza a volte. Nel tempo, nella stagione di vita che stiamo attraversando. E questa impazienza, sapete perché è triste? Perché non ci permette di essere arricchiti di quello di cui Dio ci vuole arricchire attraverso quello che stiamo attraversando. E quindi è superfluo. E io non voglio che il 2020 sia un anno superfluo per la mia e per la tua vita. Perché questo è l'anno più bello della tua vita. Se tu ti rendi conto che dietro ogni tribolazione e sofferenza e sacrificio, tu stai crescendo, tu ti stai arricchendo. Non sprecare quest'anno, non sprecare questa occasione, perché la tua occasione per afferrare la grandezza, per afferrare il vero valore di quello che Dio ti sta dando. Stai soffrendo in qualcosa? Sii gioioso di questa sofferenza, perché produce in te peso di gloria. Non essere impaziente, non essere arrabbiato, non manifestare male, ma amarezza, rancore, contese, quante cose che vediamo all'interno della Chiesa. Io credo che la Chiesa è il mezzo che Dio ha stabilito proprio per farci crescere in queste cose. Quindi Chiesa, io vi comando, tratta male il tuo fratello e la tua sorella. Trattalo male, fagli un torto. Nell'uscire facciamoci uno sgambetto. Visto che abbiamo le mascherine, non si vede, col dito vai nell'occhio. Ti saluto nel nome di Gesù. Tira i capelli a qualcuno per chi ce li ha. Strappa la maglietta a qualcuno, a me che l'ho appena comprata. Perché così facendo mi permetterai di crescere nella pazienza, nell'amore, nel perdono. Io ci scherzo su, ma io credo che è veramente il meccanismo che Dio innesca in mezzo a noi. E non sta tanto a guardare quanto diritto avresti nell'essere trattato in maniera giusta. Non sta tanto a guardare quanto torto ti hanno fatto i fratelli, quanto torto ti ha fatto quella persona o quell'altra persona. Sta a guardare attraverso questa lezione. Emulerai il mio esempio di vita. Perdonerai il tuo fratello. Gli darai qualcosa da mangiare al tuo nemico. Il matrimonio, ad esempio, è una bellissima avventura che ci insegna ad amare. A volte quando pensiamo al nostro nemico, pensiamo a un'ipotetica persona che può venire con il Kalashnikov in casa ed essere un attentatore della nostra pace. E ipotizziamo che i nemici di cui l'Apostolo Paolo stia parlando siano lontani da noi. A volte il tuo nemico è tuo marito, a volte il tuo nemico è tua moglie. Io non ho un nemico. Però capite quello che voglio dirvi. Il Signore attraverso il matrimonio ci insegna ad amare, perché i torti che ci vengono fatti permettono a noi di esercitare il perdono, il porgere l'altra guancia, l'avere pazienza. Il sacrificio svela qual è il valore vero che dai alle cose nella tua vita. E io voglio sacrificarmi per le cose del regno. Tu, nel tempo che ci sta davanti, puoi scegliere di sacrificarti. In questo anno abbiamo avuto molte persone che sono venute meno dagli impegni. Quello che registriamo a volte è che poche persone, pochi credenti vogliono prendere responsabilità, vogliono servire il Signore, ma non la responsabilità, perché la responsabilità richiede una sofferenza maggiore, è vero? Il titolo di questo messaggio è Sì masochista. Scegli di soffrire, perché nella tua sofferenza e nel tuo sacrificio crescerai. Soffri nel guidare quel gruppo familiare che non vuole venire in casa tua, che ti tratta male. Soffri nell'amare chi non è amabile. Soffri nell'accogliere chi non vuole essere accolto. Soffri nel portare avanti la Chiesa, perché in questo Dio ti guarda e Dio ti premia. E questo è ciò che veramente conta. Noi non prendiamo la gloria gli uni dagli altri, noi cerchiamo la gloria di Dio. Amen. Questo è quello che ci interessa. Essere sacrifici viventi, grati, graditi, santi. Come che dice? Accettevoli a Dio. Graditi a Dio. Questo è quello che noi vogliamo, essere graditi davanti a Dio, e Dio vede nel segreto, Dio vede quello che nessun altro vede. Nel concludere questo messaggio, visto che abbiamo parlato di sacrificio, non posso fare a meno di parlare di Gesù, perché Gesù è colui che innesca questo effetto a catena, questo effetto domino, che va avanti ancora oggi, e la Chiesa oggi funziona per quel primo, grande, glorioso sacrificio. Gesù non solo si è sacrificato, Gesù si identifica quale sacrificio stesso. Quando Giovanni Battista ha visto Gesù, ha detto: ecco l'agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, cioè colui che è venuto per immolarsi, colui che è venuto per sacrificarsi, colui che è venuto non per vivere una bella vita, per spassarsela su questa terra, per fare miracoli e cose belle. No, colui che è venuto primariamente, principalmente, per soffrire, sacrificarsi, morire. Per cosa? Per la salvezza mia e tua. Tu sai che hai valore agli occhi di Dio, perché questo sacrificio è stato grande. L'ho detto prima. Noi siamo disposti a pagare un grosso prezzo. È un sacrificio molto alto per le cose che amiamo, per le quali abbiamo passione, che bramiamo. Sapete qual è la passione di Dio? Sapete cosa brama Lui? Te e me. E ci ama talmente tanto che per questo ha fatto il sacrificio più grande per conquistarci, per salvarci, per strapparci letteralmente dalle tenebre, dall'inferno, e portarci alla luce, a questa vita e poi alla vita eterna, perché c'è una vita eterna e l'abbiamo letto in questi capitoli. La notte è giunta e il giorno è presto ad arrivare. Gesù sta per tornare e nel tempo che ci rimane da vivere su questa terra abbiamo l'occasione e l'opportunità di seguire il suo esempio. Quando è logico farlo, ma ancora di più quando è illogico, quando è da vincenti e quando è da perdenti. In cosa? Nelle cose pratiche, nel pagare le tasse, nell'essere sottomessi alle autorità, nel amare il nostro nemico, nell'offrire accoglienza, nel parlare e agire in una maniera sana, non ricambiando il male avuto con altro male. Sarà questa la scelta che facciamo noi oggi. È questo il motivo per il quale Dio ha voluto parlare a noi oggi. Dio ha voluto parlarci per portarci a una scelta. E se non hai compreso bene l'amore di Dio, allora io ti invito a leggere tutti i capitoli che precedono il dodicesimo. Ma se hai compreso l'amore di Dio per te e sai che sei salvato per grazia, io ti invito a leggere dal capitolo 12 fino al 16, a seguire tutte le istruzioni. Tutte le istruzioni. E in quelle istruzioni dove fallisci, manchi, non riesci a imitare quello stile di vita, torna all'amore di Dio. Chiede a Lui perdono, perché c'è da chiedere perdono. Ricevi da Lui la grazia e la guida dello Spirito Santo per fare quello che Lui ti chiama a fare. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, voglio invitare il gruppo lode, vogliamo pregare e adorare il Signore alla luce di quello che abbiamo ascoltato stamattina. Se oggi dici: io voglio arrendere la mia vita, voglio essere un sacrificio vivente, che è una cosa grande da dire, però che è importante che noi decidiamo di fare e che non rimandiamo a un altro giorno, allora ti chiedo, dove sei? Mentre abbiamo tutti noi gli occhi chiusi, ti chiedo di alzare le tue mani in segno di arresa. E voglio pregare per tutti noi. Padre, ti ringrazio per chi in questa sala ha le proprie mani alzate in segno di arresa, per chi da casa in questo momento sta alzando le proprie mani in segno di arresa. E io prego per ciascuno di noi che tu ci possa dare la grazia di vivere questo stile di vita rivoluzionario, sotto sopra, che non ha logica, che non è congruo a quello che ci è stato inculcato, a quello che viviamo ogni giorno. Noi vogliamo però seguire la tua parola ad ogni costo, perché tu sei il valore più grande per noi, tu sei la cosa più preziosa che noi abbiamo, e se tu desideri questo, noi lo vogliamo fare. Io prego di perdonare ogni dissolutezza, ogni fornicazione. Io prego di perdonare ogni disonestà, ogni evasione di tasse, ogni mancanza di sottomissione alle autorità. Io ti prego di perdonare ogni mancanza di pazienza nella tribolazione, ogni ricerca della nostra gloria e del nostro orgoglio, piuttosto che umiliarci e farci attrarre dalle cose umili. Ognuna delle cose per le quali tu ci hai parlato questa mattina nella lettura della tua parola, dove falliamo, ti chiediamo perdono. Ti chiediamo l'opportunità di rialzarci nella tua grazia per camminare e svolgere quella mansione che tu ci hai affidato, essere tuoi ambasciatori su questa terra e brillare della tua luce. Nel nome di Gesù. Prego questo per la tua Chiesa, per i prossimi 50, 100, 200, quanti anni sono, non solo per la Chiesa Pieno Vangelo, ma per ogni Chiesa, la tua Chiesa, che possa crescere nell'amore, nel perdono, nella grazia. Nel nome di Gesù lo preghiamo. Prego per chi ha difficoltà nel perdonare, nell'amare il proprio nemico. Oh Signore, chi ha la forza di vivere perdono per certe colpe, per certi torti? Nessuno di noi. Però in te possiamo. Per la misericordia tua, per l'amore tuo, noi possiamo. E io ti chiedo di darci questo potenziamento in questo momento, nel nome di Gesù. Amen. Continuiamo a pregare. Stiamo alla sua presenza. Adoriamo e continuiamo a pregare.